Qual è l'età dell'anima umana? Come essa ha la virtù del camaleonte di mutar colore a ogni nuovo incontro, d'esser gaia con chi è allegro e triste con chi è abbattuto, così anche la sua età è mutevole come il suo umore. Né quel Leopold che qui siede a ruminare e a rimasticare il fieno della reminiscenza è più il posato agente di pubblicità e titolare di una modesta aliquota di buoni del tesoro. Una ventina di anni volarono via come un soffio. È il giovane Leopold là, come in una inquadratura retrospettiva, specchio nello specchio. Voilà, monsieur! Egli si vede. Quella giovane figura d'allora la si può vedere, precocemente virile, andare a piedi in una gelida mattina dalla vecchia casa in Clanbrassil Street fino alla scuola superiore, con la cartella a tracolla e dentro una bella fetta di pane bianco, pensierino della mamma. Non è forse la stessa figura, trascorso qualche anno, col primo cappello duro in testa? Ah, quella fu una gran giornata, già sulla sua strada. Viaggiatore in proprio per la ditta paterna, munito di un libretto per le ordinazioni, un fazzoletto profumato, non solo per bellezza, la valigetta di lucenti cianfrusaglie, ahimè, acqua passata ormai, e una faretra di sorrisi compiacenti per questa o quella massaia semiconquisa che faceva il conto sulle dita della mano. O per una vergine in boccio che accettava ritrosa. Ma il cuore? Dimmi. I suoi esperti baciamano. Il profumo, il sorriso, ma più di questi gli occhi scuri e il modo di fare untuoso. Riportavano a casa al cader delle tenebre più di un ordine al direttore della ditta, seduto con la sua pipa Jacob, dopo analoghe fatiche, all'angolo del focolare paterno. Un piatto di tagliarini, puoi esserne certo, era sul fuoco, a leggersi attraverso i tondi occhiali di corno qualche giornale d'Europa di un mese prima. Ma ecco, voilà, monsieur, qualcuno alita sullo specchio e il giovane cavaliere errante si ritrae, si rattrappisce, si riduce a un puntino minuto nella nebbia. Adesso è anch'egli paterno. E questi a lui d'intorno potrebbero essere suoi figli. Chi può dirlo? Il padre savio conosce suo figlio. Egli pensa a una notte piovigginosa in Hatch Street, là, proprio vicino ai magazzini, la prima. Insieme è un povero relitto, un figlio della colpa, tua e mia e di tutti, per uno scellino o più il soldino portafortuna. Insieme. Essi odono il passo pesante della ronda, mentre due ombre con la mantellina passano davanti alla nuova regia università. Bridie, Bridie Kelly. Non dimenticherà mai il nome. Sempre ricorderà la notte, la prima notte, la notte nuziale. Sono allacciati l'uno all'altra, nell'abisso delle tenebre, lui che vuole e lei che è voluta. E tra un istante, Fiat! La luce inonderà il mondo. Il cuore balzò incontro all'altro cuore? No, adorabile lettrice. In un lampo fu fatto, ma ferma, indietro, non può essere! Atterrita la povera fanciulla fugge nell'oscurità. È la sposa delle tenebre, una figlia della notte. Non osa essa generare un solare figlio dell'aureo giorno. No, Leopold, né nome né ricordo ti sono di sollievo. Quella giovanile illusione della tua forza ti fu rapita, è indarno. Nessun figlio dei tuoi lombi ti sta al fianco. Non c'è ora nessuno che sia per Leopold ciò che Leopold fu per Rudolf. Le voci si fondono e si mescolano nel silenzio rannuvolato, un silenzio che è l'infinito dello spazio. E rapidamente, Silenziosamente l'anima è sospinta e aleggia sopra regioni di cicli di generazioni che hanno vissuto. Una regione ove il grigio crepuscolo sempre discende, mai cade, su verdeggianti ampie pasture, diffondendo la sua mezzaluce, spargendo qua e là una perenne rugiada di stelle. Essa segue la madre con passo maldestro, giumenta che guida la sua cavallina. Crepuscolari fantasmi sono esse, pur modellate con profetica grazia di proporzioni, svelte le anche tornite, flessibile il collo nel gioco dei tendini, mite e timorosa la testa. Svaniscono, tristi fantasmi, tutto è passato. Agendath è una terra desolata, ricetto di gufi e della miope upupa. Netaim, l'aurea, più non è. E già lungo la strada maestra delle nubi essi avanzano, murmure e tuono di ribellione, i fantasmi degli animali. Odi! Parallasse caracolla dietro a loro e li pungola, scorpioni. Sono le folgori lancinanti sulla sua fronte. L'alce e lo yak, i tori di Bashan e di Babilonia, Mammut e Mastodonte, scendono a torme verso il mare sprofondato, l'Acus Mortis. O infausta, vindice schiera zodiacale, gemono, trascorrendo sulle nubi, cornuti e capricornuti, i proboscidati con gli zannuti, i lioncriniti, quelli con gigantesche corna ramose, i grugnenti e i serpentini, i rosicanti, i ruminanti e i pachidermi, tutta la loro mobile, muggente moltitudine, assassini del sole. E avanti, verso il Mar Morto, caracollano a bere, insaziabili e con orrendi gorgoglii, l'inesauribile salso sonnolento flutto. E il prodigio equino ancora cresce, ingigantito nei cieli deserti, anzi, fin quasi ad eguagliare la vastità del cielo medesimo, sì che impende, cupo e sterminato, sopra la casa della Vergine. Or ecco, miracolo della metempsicosi, è ben lei, la sposa eterna, foriera della stella mattutina, la sposa, la sempre Vergine. È lei, Marta, tu sparisti. Millicente, la giovane, la cara, la raggiante. Come serena in ciel si leva, regina tra le Pleiadi, nella penultima ora antelucana, calzata in sandali d'oro fulgido, sulla testa un velo di come si chiama? Fili della Vergine. Fluttua, fluisce attorno alla sua carne stellare e sciolto scorre, smeraldo, zaffiro, malva ed eliotropio. Sospeso sulle correnti del freddo vento interstellare, avvolgendosi, attorcendosi, semplicemente mulinando, serpigno iscrivendo nel cielo caratteri misteriosi, finché, dopo una miriade di metamorfosi, di simboli, fiammeggia, alfa, rubino e segno triangolare sulla fronte del toro. Francis risvegliava in Stephen il sovvenire degli anni che furono, quando erano stati a scuola insieme, ai tempi di Conmi. Chiedeva di Glaucone, di Alcibiade, di Pisistrato. Dove erano adesso? Nessuno dei due lo sapeva. Hai parlato del passato e dei suoi fantasmi, disse Stephen. Perché rammemorarli? Se li richiamo in vita di là della riviera Letea, non si affolleranno i miseri spiriti al mio richiamo. Chi lo suppone? Io, Bous Stephanoumenos, bardo bazzicabovi, sono il loro signore e datore di vita. Singhirlandò i capelli rigogliosi d'un serto di pampini aulenti, sorridendo a Vincent. Quella risposta a quei pampini, Vincent gli disse, ti si converranno meglio quando qualcosa di più e di ben più grande, d'una manciata di odicine, chiameranno padre il tuo genio. Tutti coloro che ti vogliono bene lo sperano vivamente, tutti desiderano vederti partorire l'opera che vai meditando, acclamarti Stefane Foros. Mi auguro di tutto cuore che tu non manchi loro. Oh no, Vincent, disse Lenian, posando la mano sulla spalla che gli era vicina. Non temere, mai potrebbe lasciare sua madre orfana. Il volto del giovine si incupì. Tutti potevano vedere quanto gli fosse grave l'esser rammemorato della sua promessa e della sua perdita recente. Si sarebbe ritirato dal simposio se il suono delle voci non avesse lenito la doglia cocente. Madden aveva perduto 4 dracme su Sceptre per un suo capriccio, il nome del fantino, e Lenian altrettante. Disse loro della corsa. La bandiera s'abbassò e, via, come folgori, la cavalla fresca di forze spiccò il volo, cavalcata da O'Madden. Conduceva il gruppo, tutti i cuori palpitavano. Anche Fillide non poteva contenersi. Agitava la sciarpa e gridava: Urrà! Sceptre vince! Ma sulla linea d'arrivo, quando erano tutti in gruppo, Buttavia, il cavallo dell'ultima ora, arrivò alla sua altezza, la raggiunse, l'oltrepassò. Tutto era perduto ormai. Fillide taceva, gli occhi due anemoni tristi. Giunone! Gridò: Sono rovinata! Ma il suo amante la consolò e le portò un lucido cofanetto d'oro in cui giacevano oblunghe confetture, ed ella ne prese. Una lacrima cadde, una soltanto. Una magnifica frusta, quel W. Lane, disse Lenian. 4 vincenti ieri e 3 oggi. Qual fantino potrebbe assomigliarsi a lui? Mettilo sul cammello o sul bufalo riottoso e la vittoria è sua in meno di un trotto. Ma sopportiamo, come usavano gli antichi nostri. Misericordia per colui al quale non arrise la sorte. Povera Sceptre, disse con un lieve sospiro. Non è più la puledra d'un tempo. Mai sulla mia fede vedremo l'eguale. Perdinci, signore, una vera regina. Te ne rammenti, Vincent? Avessi tu visto la mia regina oggi, disse Vincent, quanto giovane e radiosa. La Lage sarebbe impallidita a petto a lei, con le scarpette gialle e la gonna di mussola, non so come propriamente si chiami. I castagni che ci davano ombra erano in fiore. La loro suadente fragranza stillava nell'aria e il polline pioveva intorno a noi. Nelle chiazze di sole avresti facilmente potuto cuocere un'infornata di quelle focaccine con l'uvetta di Corinto che Periple Pomene vende nel suo stallo presso il ponte. Ma ella non aveva altro da mettere sotto i denti se non il braccio con cui la sostenevo e che essa mordicchiava birichina quando la stringevo troppo da presso. Ora una settimana fu malata, 4 giorni sul suo giaciglio. Ma oggi era libera, svelta, si burlava del pericolo. È più avvincente allora. E i suoi mazzolini? La pazzerella ne aveva già colti gran copia mentre giacevamo insieme. E te lo dico in un orecchio, amico mio, non lo indovineresti mai chi ci ha incontrati mentre uscivamo dal campo. Conmi in persona. Camminava lungo la siepe, leggendo, pensa, un breviario con dentro. Non ne ho alcun dubbio. Una spiritosa lettera di Glicera o di Cloe per tenere il segno. La soave creatura cangiò 100 colori nella sua confusione, fingendo di emendare un lieve disordine nel suo abbigliamento. Un ramoscello le si era attaccato alla veste, poiché persino gli alberi l'adorano. Quando Conmi fu passato, dette un'occhiata alla sua deliziosa eco nello specchietto che porta con sé. Ma egli era stato gentile. Nel passare ci aveva benedetti. Anche gli dèi sono sempre cortesi, disse Lenian. Se la sorte non mi fu propizia con la cavalla di Bass, forse questo suo beveraggio mi sarà più benevolo. Già poneva la mano sull'orciolo del vino. Malachi lo vide e ne lo ritenne, accennando al forestiero e all'etichetta scarlatta. Cautamente Malachi sussurrò. Serbate un druidico silenzio. La sua anima è lungi da qui. Forse è doloroso quanto il nascere, l'essere risvegliati da una visione. Ogni oggetto fissato intensamente, Può essere una porta d'accesso all'incorruttibile eone degli dei. Non lo credi, oh Steven? Teosofos me l'ha detto, fu la risposta di Steven. Lui, che in una precedente esistenza sacerdoti egizi iniziarono ai misteri della legge karmica. I signori della luna, mi disse Teosofos, un carico arancio fiammante venuto dal pianeta Alfa della catena lunare, non vollero assumere il corpo dei doppi eterici, ed essi furono perciò incarnati dagli ego color rubino della seconda costellazione. Pertanto sta di fatto che l'insostenibile supposizione che egli fosse comunque prostrato, ovvero mesmerizzato, dovuta ad una concezione del tutto erronea ed estremamente superficiale, non faceva menomamente al caso. L'individuo, i cui organi visivi, mentre avveniva quanto sopra detto, cominciavano a manifestare in questa congiuntura sintomi d'animazione, era astuto altrettanto, se non più, d'ogni altro uomo vivente. E chi avesse opinato il contrario si sarebbe trovato ben presto dalla parte del torto. Da 4 minuti circa teneva gli occhi fissi su un certo quantitativo di birra Bass numero 1, imbottigliata da Bass e Co. di Barton Trent, che si trovava situata in mezzo a un gran numero di analoghe bottiglie, esattamente di fronte a dove egli stava, e che erano certamente intese ad attirare l'altrui attenzione a cagione del loro aspetto scarlatto. Egli era puramente e semplicemente, come trapelò in seguito, per ragioni note a lui solo e che prestarono a quanto avveniva tutt'altro colore, dopo le osservazioni di un momento prima sugli anni dell'adolescenza e sulle corse, in atto di richiamare alla mente due o tre sue operazioni private, delle quali gli altri due erano incolpevoli, come un piccino nel seno materno. Ad un determinato momento, tuttavia, i loro occhi si incontrarono e, non appena cominciò a farsi strada in lui, l'idea che l'altro veniva tentando di servirsi della cosa, egli involontariamente determinò di servirlo egli stesso e conformemente si impadronì del recipiente di vetro di grandezza mezzana contenente il liquido ambito e ivi operò un vuoto generoso, versando buona parte del suo contenuto, in pari tempo dando, tuttavia, prova di un considerevole grado di attenzione, al fine di non disperdere una sola goccia della birra che vi si trovava.